Ora attenzione al canale 10, c'è qualcuno? Ah, Gianni, sto facendo la PC, Gianni. Vai, vai, tranquillo, tranquillo. Se c'era qualcuno, se non risponde nessuno, ma non parla. Boh, non ho sentito nessuno, io acceso ma sono al computer. E cosa stai chattando? No, sono sui programmi per i progetti della stampa 3D. Va bene, ciao, buona serata. Ciao Giacomo. Ciao, Danny Glitch. hai fatto bene a portarti la radio, dai. Per poco non sono valga a nessuno, perché io ho chiamato 30 volte che ha risposto Luca Flipper, ma sta facendo roba al PC e quindi stavo per spegnere. Ma devi lasciarlo come l'hai regolato prima, perché ti dà che potenza, potenza di radio ti dà, che radio, che microfono stai usando? Bella radio, come quello che uso io in macchina, e là. Vabbè, io me l'ho modificata ancora di più con la CTE. Me lo ricordo, ho trovato io lo Smith. Sì. Il cavetto l'hai trovato. Il cavo di alimentazione l'hai trovato. Ma se rimetto un mammut che la prolunga e faccio il gioco, non è quello il problema, fra. Però già li vendono tutto quanto il cavo intero, io mi pare che ne ho uno o due, ce li ho di riserva. Ho sbagliato il microfono, scusa, perché c'è l'attaccata anche i Galaxy per farlo riscaldare. Come mai hai sbagliato il microfono? Perché sono al buio e ho sbagliato, invece che cliccare quello dell'altro apparecchio, ho cliccato quello dei Galaxy. Stavo dicendo, l'ho tutto ripetito con quella carta dei cinesi, capito? Quella carta praticamente al carbonio. Sì, ti ho capito. Ho capito, Franco. E vabbè. E che colore sono le luci? Blu. La luce dello speaker è gialla, già. Devo comprare quei led con i led bianchi oppure led blu. Quelli blu ci devi mettere, ci metti quelli blu e diventa una figata, perché per cenare le manopole che si illuminano. Scappa di positivo, ma sono tutte verde. A me, ma quello lì riflette la luce e basta, non penso che sia dentro la lampadina. Non mi piace, ho messo le sue originale, già. Il originale ho messo, al limite voglio fare lo speaker, pure bello. Se vedete quello che vuoi io di notte era uno spettacolo, cazzo, tutto quanto in blu era. Poi quando modulavo si accendeva lo speaker rosso, si faceva. Iglia, sì. Allora va bene come radio, poi me l'ha regalata. Mi ha regalato quella, questa radio, poi ho recuperato un 747 anche, capito? Quelle lì non li vendono più, se li vendono un Beccari, ce li ha magari agli BC, però li vendono Beccari. Quelli sono bei linearetti. Ho fatto male io che quello venduto, è bellino, ma perché io non me ne faccio nulla? In macchina, certo, ci metto sempre il coso, che esce bene, la linea non me la fucci nulla. Spero mai, io non ti ne affucci, io sto scendo con i battisciuoli, aspetta a rato. Adesso è tirata 25 e vado. Cappata. E quante ne dà perché? Allora, questo ne dà 25, 20, quasi 30 modulati, e praticamente poi lo posso fare uscire con 5 e vado. Io ne avevo uno con la calamita, li passavo la calamita e diventava normale, poi li passavi e entravano le modifiche. Ma me lo ricordo a chi l'ho venuto, me l'avevo venuto ma non me ricordo a chi. Oggi io ho fatto la prova con quelle antenne, ho provato l'800, ho provato la 1000, a livello di segnale precisa questa piccolina, capito? Perché questa piccola c'ha doppia carica, due cariche c'ha, capito perché va bene. Ma a livello di espansione di frequenza quella lì non è A, se tu vai per dire nei canali alti, vabbè, per come la usi tu vabbè, ma se tu vai nei canali alti ti comincia ad andare stazionare con l'antenna, mentre invece la PLC 800 è a larga banda. Sì, lo so già, ma intanto io non ne ho canali di USB e LCP, quindi non mi interessa. Io l'ho messo questa e in macchina quando mi sono appena fermo. Magari io vado a pescare a fare una chiacchierata così, capito? Quindi non è che posso pretendere, ma già va bene così. manco più mettere in macchina, perché non vede mai nessuno, fa la fatica di metterlo, di fare, mettere l'antenna da bui, non risponde nessuno. Ogni volta è così. Per miracolo l'altra volta mi ha risposto Giulio, ma appunto per miracolo, perché sennò non vede mai nessuno mangiare. Io la metto, prima la mettevo quando andavo a fare la spesa, che andavo a prepararla, giravo, facevo, me la mettevo. E sono stato 5 minuti e poi rientravo e mi facevano compagnia, capito? Sì, qua c'è la già, infatti c'è così. Sì, vabbè, io l'ho messo, tanto che ci vado a pescare, c'è tempo, c'è da dopo. E non lo attacco, scusa. Non avevo tolto la verità, poi ho detto, ma se tolgo l'antenna della radio ci metto quella del baracchino, tanto non ti dico piccolino, sembra un'antenna autoradio e va bene lo stesso. Sì, ma infatti, l'hai messa fissa, allora. Sì, ce l'ho fissa a posto di quella dell'autoradio, sembra un'antenna di autoradio. Quell'antenna famosa, quello qui a carica, me l'aveva fatta, me l'aveva regalata a Claudio. L'antenna c'era proprio la Claudio nella macchina. Ah, quella che insomma, che macchina era? Quella piccola, che sembra una macchina della polizia borghese. Esatto, quella lì, quella che usava lui nella macchina. Sempre quella, una pompetta per tante. Ma non ricordo che modulava da lontano, lo sentivo sempre. Modulava da fuori e lo sentivo lo stesso. Vabbè, ci aveva anche il lineare grosso. Sì, vabbè, comunque, questa antenna anche la Tintino la ricopilisce. Sì, ma Tintino era una buona per qua. La sassa è buonissima come zona. Io modulavo con un apparecchio normale di 5 watt e un antennino. E mi sentivano da dove andavamo a fare i picnic lì vicino al cimitero, là, dove c'è quel posto per picnic. Andavo lì e volevamo da lì tranquillo con lo sasso. La radio è proprio chiara adesso, fra. Chiara, chiara? Non pigliare il coalo. Metterò il pullo. Buonasera! Ma ne poi non mi senti dove? Già ti intendo io, non ti intende nessuno. Come va? Buonasera. Ciao, bubu. Come ti sta arrivando lì a casa? Andiamo, bubu. Già mi sei arrivando di me, forte mi stai arrivando. 9 e 5. Aspetta, la pensa con la Maria. Ah, pure, a che cosa è arrivi a 9 e 20? Cioè, da te quante è? Aspetta che guardo, mi devo alzare. Andiamo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Andiamo bene, andiamo, bubu. Sì, quasi 9 e 40. Ciao, tu. Ciao, Tony, buonasera. Tony, quanto ti sta arrivando in campagna da te? Fondo stivale, radio 5. Aspetta, ma Antonio arriva di noi, contro la radio Svizzardone. È impossibile. Prova a vedere, già ho baciato un gol, già va. E guarda a vedere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prova 1, 2, 3. Con il picchio positivo mi sta arrivando 9 e 5, non di più. 9 e 20 a me. E vuol dire che tu non fai essere ricezione, chi mi dà a te. Va bene, dai, chiudo, riprenderò la casa dopo. Ciao Torino, ciao Tore e ciao anche a Gianni e eventuali ascoltoni. Riprendo la casa dopo, ciao a tutti, dai. Ciao Frank, ciao, buona serata. Avanti Torino. Ciao Gianni, comunque, ciao Franco, ciao Tore. Sì, io sto cercando di modificare un'antenna, quella Rino che non vale nulla. Tutta una modifica, secondo me è cortocircuitata. Sto facendo che addirittura il polo caldo va sullo stilo e la massa va nella spirale. Non modificare nulla, che la Ringo non serve. Non fa a modificare nulla. Sì, come la faccio io già da me, non si preoccupa. Ma perché cosa stai modificando? Per la 27 o per fare ascolto delle balle alla teoria? No, per la 27. E darla a Roberto, che può vicino a me. Ah, ma qui sì, grazie a Dio. Questo che si faccia anche un dipolo, dice lo stesso bene. Vabbè, però per non fare il dipolo, adesso ho questa antenna tra le mani, so, a chi non anda a Macarruccio. Come abitava il PL, non sentiva più nessuno. Adesso facciamo tutta la modifica separata, perché era cortocircuitato tutto quanto, polo caldo, e la massa andava tutto unito praticamente, e io l'ho tutto modificato adesso. E adesso come va? L'hai provato? No, sto asciugando il silicone adesso, come ho fatto io, dove ci va il cappuccio, c'è il PL, non, però c'è del acqua, ho messo tutto il silicone sulla da chi asciuga. Ah, l'hai già attaccato il capo? No, ni. Allora, nella spirale c'è il PL, capito, va già a massa, e quello lo lascia con la massa e va bene. Il polo caldo, c'è un filo grosso di rame che va direttamente attaccato all'antenna, filo centrale, che è quasi 6 metri. Quindi, ma dove c'è il polo caldo? Ah, un capocetto in plastica, io gliel'ho sceso fin giù e gli ho messo tutto il silicone intorno, capito? Quindi se piove non ne va tenuta. Sì, perché quell'antenna lì aveva il problema che entrava acqua. Non è tramuta, manco lo biubaro. Avanti, Tone. Infatti, con l'antenna lì entra acqua, entra. Non mi piace ne bagni, insomma. Ecco cos'è. Io ce l'ho modificata con l'antenna lì. Ce l'ho. Per le 11, da parte dagli 80 ai 6 metri. Oh, praticamente con l'antenna l'hanno fatta male a chi non può andare con polo caldo e massa tutti insieme, ma come è fatta a paccare dai, non andava bene, quindi trovate a escludere. Per fare gli incassi che ci va giustamente il morsetto in acciaio, la va tutta quanta, ha messo il nastro vulcanizzante, a chi ce lo traeva? Io l'ho vulcanizzato tutto quanto, gli ho messo il nastro nella scatola. Ho messo tutto quanto, gli ho messo io, ma non entraeva. La scatola non è ammesso. Questa c'è la scatola sotto, per da che parte? Dagli 80 ai 6 metri. Ma per mettere due CPL? Fa gli 80, 40, e poi fa i 20 metri e altre frequenze. No, io ho fatto la modifica sotto che la calza va nella spirale, perché non è a radiali, capito? Mentre il polo caldo lavora tutto sullo stiro centrale. Ma con questa ne ha radiali, è precisa quella della 27, solo che c'ha una scatola in più. Andare. Adesso bisogna procurare anche un Roosevelt per andare bene, che non nasce. Quelle antenne lì vanno bene finché non entra l'acqua, perché arrivano bene, arrivi bene, eccetera, però come fa umidità? Tutti si lamentano anche su internet, nessuno si lamentano di questa cosa che gli entra acqua. Gianni, ti manca qualcosa? Sì, perché, da come si è parlato? A me non mi manca nulla, io sto solo dicendo quello che ho letto. Non hai capito. Non scandisci bene le parole, vuol dire che in bocca ti manca qualcosa. Sì. No, ho capito, mi manca qualcosa, nel senso che sto dicendo che tra l'acqua e l'antenna. Sì. Si sente. Sì. La massa di rivaria. Vabbè. Rosso, sono sempre. Comunque, hai capito già cosa sto facendo io? Lavora tutto lo stiro centrale col polo caldo, mentre la massa nella spirale che c'è attualmente. Cosa hanno fatto questi imbecilli? La massa con lo polo caldo è tutto unico, ecco perché andava a casino, attaccava il PL e non si sentiva nulla, andava a evitarlo. Svitava il PL, lasciava solo il polo caldo e si sentiva. Vai, dai. Ma tu quella lì, se con la mano l'hai ripresa tu? E allora, a Savino 50 euro ha voluto, se avessi avuto mi ha comprato un avvio. Magari gli hanno messo mano, capito? Magari non è così dalla fabbrica, è stata modificata in qualche modo, e magari male. Se così va bene, vuol dire che era stata toccata. Io l'ho fatto come Dio comanda, adesso aspetto che asciuga il silicone. Purtroppo non c'è il silicone trasparente, avrebbe già asciugato, c'è quello nero e tarda un po' di più a asciugare, capito? Però poi diventa un po' diventa. Oh, mi raccomando, è nuova, ma ho usato una volta solo la mazza di rifaria, vabbè, dai. Ha avuto un mollo, dai. L'anno scorso gliel'ho presa. Vabbè, pazienza, avanti, tocca. io mi ricordo che riuscivi bene tutto lì con quell'antenna. Ma se non l'ho mai usata la ricordo in senti. Io avevo l'energia, avevo e poi ho avuto la Mantova e poi ho avuto questa Veno e c'ho sempre la Veno. Ah, l'energia, si sto sbagliando io, l'energia, quella che ci vedi bene. Ecco, tant'è tu l'hai data a Maria Franco ed è buono che si attenta. No, non c'avevo un bilisciato d'aria, come per me vi rapportate che c'è da fare, cosa fa questa stazionale? Ah, io non avevo stazione, la verità. Quindi. Sì, vabbè. Quindi passati, insomma. Adesso Franco sta facendo con quella che ho fatto io, sarà giustata se sto facendo con quella lì. Vabbè. Va bene. Niente, io sto. Mi sto ordinando un'altra antenna. L'ha ordinata mio figlio con Amazon, la creazione. Mamma mia, da bullo a tu la dice quella antenna, la creazione che è buona, però ha un bel di bulloni, non è che già ci stai destreggiare, però l'ho vista smontata, tu ne facendo vedere come si monta, ogni aggasino, un bel di bulloni di vici, di cose di qua. Sì, lo so, io l'ho visto, c'è il filmino, c'ho. Signore! Hello! Ma già ne lo sento un po', ma è che dentro ti manca, ora bocca gonfia vai! Ma a chi è dentro non ho capito? Ah Gianni, lo sento tutto strano, fa vedere. Cosa va? Ho un boccone in bocca. Il boccone c'ho. Oh, insomma, io, se tu hai ascoltato bene, come ho parlato con Gianni, non l'avessi detto queste cose qua, è per bacco, otore. C'ero. E questo cos'è? Ho sentito qualche cosa, pensavo che fosse. Da me, cazzo senti così qui non arrivi, ma. Da me mi ha riveduto giunato. Un piccolo fisco di innesco c'aveva. Pensa un po' come ti dà. Santiago Pio Pio, io quando guardo sempre lo Smith ce l'ho davanti, quindi era molto basso. Adesso raffreddando il saldatore, gli ho saldato il filo. Andata bene. Eccoci. Ma. Così è. La sfiga. Perché la sfiga? Perché, vabbè, io te lo dico. Mi è caduta quella cosa, si è spaccata. Sì, certo. Ma tu non eri già andato per rifare l'altra? Ehi, quella roba mi è caduta, mi è scivolata la mano, mi si è rotta. Ma che cazzo se mi siete bene, ma di ricorso già. E stai a fare attenzione con questa roba delicata, ma voi non ti capisco, guarda. È un momento di tuni, non è che sia, ma di ricorso già vuol dire. Mi è scivolata. Purtroppo sono delicate. Almeno si può riparare, sì? Sì, si può riparare. Ah, va bene. Comunque, se lo da dire come per battuta, non ridere Gianni. Meglio quello che il culo rotto. Che cosa? Allora, sempre più la ciao. Vecina spontanea, avanti tu. Mi devo via. Ciao. Buonasera Luca! Buonasera a voi, siete tipo un casino. Boh, andiamo bene, andiamo. Questo Kawasaki, vuoi parlare con muro? Mi ti metto la portantina, mi? O ti faccio fare un brodino di marmo? Sì, non ti passo l'acqua sulle labbra! Sembra che lo fai bene, tu già l'hai frequentato bene a fare cose. Non faccio più gli anni, oi! Ciao Luca, comandiamo. Ciao già, non riuscivo a fare una visitata, sono andato a fare un lavoro, sbrigativo. Ci sto provando a farlo in fretta, se no ci mettevo, guarda, orologio, ci mettevo mezz'ora. Mi sono prolungato, giusto per non far vedere. Poi sì, ci provo a far vedere. Se ci mettevo, facevo veloce. Con l'antenna TV sono piazzato, 100 euro, Marison. Ma sono Marino? Tu, ma un televisore che fa lo schermo viola, si può mettere a posto? Allora, televisore che fa lo schermo viola, secondo me sono partiti cristalli liquidi. Ah, e quindi non si può fare nulla. Ma no, quanti polizie? È grande, di quelli che si attaccano al muro. Ah, quell'ultimo famoso, quanti anni aveva il televisore? Non è il mio, è di una amica, capito? Ma mi ha chiesto se si poteva usare, se si poteva riparare. Non lo so quanti anni ha, ci avrà 5-6 anni, non lo so. Eh già, però, quanti polizie ha detto che è grande, così è? È grande, di quelli che si attaccano al muro. Tutti si attaccano al muro, Gianna, che ha 32 pollici, cosa c'entra? Basta avere la zappa. Grande quanto il mio, 65 pollici. No, non è così. Non è più o meno come quello che ci sarà io, dai. Già, tante cose possono essere, capite. Mari è la, come si chiama, la, vabbè, c'è una scheda dentro, ma è quella da cambiare. E tante cose, non si fatti dire la marca, fatti dire quanti pollici, così vado un po', ma indago. Ehi, andrà bene. Ma non possono essere i LED? No, praticamente le TV hanno una scheda dentro. Questa scheda va a collegare il flat del display, cioè dei cristalli liquidi, e poi va a collegare la scheda che è all'interno. E lì, con la scheda lì sicuramente, di solito è quella. Però non è detto, ma sono i cristalli liquidi danneggiati. Casino, queste TV nuove, un casino, io ne ho una lo stesso, grande. Però la mia è perfetta, no? Non c'ha nulla. E lì spenta, ce la sta vivendo. C'è un 55 pollici, 4K smart. Però a me non mi posso nulla, a me mi basta un massimo 40 pollici. La mia la stessa è perfetta, Luca, ce l'hai vista 65 pollici. Itachi. No, io già, quella di cucina è perfetta, è nuova, sta scherzando. Cosa avrà? 2 anni al manco. Ma tu non avevi una che magari avevi toccata, non so, non mi ricordo cosa era successo. Io non le tocco, io tocco solo le donne. La televisione non è roba da me. Ma ti spettano le mani però. No. Io tocco un'altra cosa, è meglio usare. Non vado a toccare altre cose. No, quella c'è la cucina enorme, bella, grande. Ho pagato anche il prezzo proprio, l'ho preso al volo, 450 euro. Comunque dammela subito, io. Pagata e via, pronta e via, non ci stava neanche in macchina, giomai. Quella grande? E io, 65 pollici. E dove l'hai presa tu? MD, e risposta, era una sola, la giubbia da lavoro. Io ho chiamato uno che lavorava lì, ho detto ascolti, voglio questa televisione qua. Rimango qua che non avviene un altro, ce la compra lui. Ho capito. E che marca è quello lì? Zephyr, boh. Oh, non ho mai sentito. Vabbè, comunque si andava. È una sottomarca, Ma se vai sono buone, la TV, la fortuna mia. Se tu compri la TV a LED. Come si dice? Distribuzione LED, e poi si possono cambiare. Per esempio, io questa qua è mia, se dovesse avere un problema del genere, ma se faccio danno, la mia va qualcuno, mi mette la rampa, mi interessa. Però se vado a ripararne una che non è mia e le do un po' di stare liquidi, mi conviene. Io a me ci provo, se ci riesco bene, sennò buonanotte, andiamo a finire la mondezza. Oh Luca, poi fammi capire, c'è a cristalli liquidi e anche a LED, giusto? Certo, i nuovi sono a LED. Io ce l'ho tutto a LED, ce l'ho. Anche mio a LED, i nuovi sono a LED, Tony. E anche quelli che non sono nuovi, tu non è che è mio, le cambiate, ce l'ho con gli anni, sono buttata via perché si spegneva, alla fine mi sono rotto le scatole e ce l'ho buttata, me l'ho comprata nuova. Ti ho messo tutto il pannello lì di nuovo già, pannello e LED, tutto nuovo ti ho messo. Lo so, ma stavo rompendo le scatole di nuovo, qui ci ho messo gli anni, ho detto cosa la tengo a fare. E insieme ci ho buttato anche il mangiacassette lettore anche di DVD, che erano insieme, cioè il mangiacassette da una parte, il lettore di DVD, tanto non si poteva più attaccare, perché quella lì era l'unico televisore dove poteva attaccare, che aveva la presa a scarpa. Ho capito, vabbè. se roba vecchia. Dai, io mi sposto un attimo, se ci siete, arrivo subito, vado a prendermi due pizzette, dai, ho fame. Dai, ce l'hai di fronte a te intanto, è vicino. No, io sto chiedendo da che adesso mi scaldo la pasta al forno e sono a posto. Ciao Luca, ben sentito, ciao Tore, che particio, ciao Gianni, farò girare. Ci sentiamo, ciao ciao. Ciao, ciao Luca, ciao Torino, ciao Pittore, sono qui anch'io, dai, devo portare il carico. Ciao, ciao. Ciao a tutti allora. Ciao, ciao.